L'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani di Israele e disse ad Aronne: prenditi un vitello per il sacrificio espiatorio e un montone per l'olocausto, senza difetti, e offrili davanti al Signore. Parlerai ai figli di Israele dicendo: prendete un capro per il sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello nati nell'anno senza difetti per l'olocausto, un toro e un montone per il sacrificio di comunione da immolare alla presenza del Signore, e un'oblazione intrisa d'olio. Oggi infatti il Signore si manifesterà a voi. Portarono dunque ciò che Mosè aveva ordinato davanti alla tenda del convegno, e tutta l'assemblea si avvicinò e stette alla presenza del Signore. Mosè disse: questo è ciò che il Signore ha comandato che voi facciate. La gloria del Signore si manifesterà a voi. Poi Mosè disse ad Aronne: avvicinati all'altare e compi il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto. Compi il rito espiatorio per te e per la tua casa. Fa l'offerta del popolo e compi per loro il rito espiatorio come ha comandato il Signore. Aronne si avvicinò all'altare e immolò il vitello del suo sacrificio espiatorio. I figli d'Aronne gli presentarono il sangue. Egli intinse il dito nel sangue e lo mise sui corni dell'altare e versò il resto del sangue alla base dell'altare. Il grasso, i reni e il lobo del fegato della vittima espiatoria li fece fumare all'altare, come aveva comandato il Signore a Mosè. La carne e la pelle le bruciò col fuoco fuori del campo. Poi immolò l'olocausto, e i figli d'Aronne gli porsero il sangue, ed egli lo sparse intorno all'altare. Gli porsero l'olocausto tagliato a pezzi insieme alla testa, ed egli lo fece fumare sull'altare. Lavò gli intestini e le gambe e li fece fumare, oltre all'olocausto, sull'altare. Fece poi l'offerta del popolo. Prese il capro del sacrificio espiatorio del popolo, lo immolò e compì con esso il sacrificio espiatorio come con il primo. Offrì l'olocausto e compì il rito secondo le regole. Offrì l'oblazione, ne prese una manciata piena e la fece fumare sull'altare assieme all'olocausto del mattino. Immolò il toro e il montone del sacrificio di comunione del popolo. I figli d'Aronne gli porsero il sangue ed egli lo sparse intorno all'altare. Gli porsero le parti grasse del toro e del montone, la coda e il grasso che ricopre i reni e il lobo del fegato. Ed egli mise tutte queste parti grasse sopra i petti e le fece fumare sull'altare. I petti e la coscia destra Aronne li agitò nel gesto della presentazione alla presenza del Signore, come aveva comandato Mosè. Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. Poi discese, avendo compiuto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e il sacrificio di comunione. Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E si manifestò la gloria del Signore a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò l'olocausto e le parti grasse. Tutto il popolo vide, e ruppe in canti, e cadde con la faccia a terra.